scandita in momenti avuti e poi persi nel tempo. A volte le gioie, in altre i tormenti, come nuvole spazzate dal vento. Ritorno delle cose più care, l'amore fa sempre così, emozioni sempre più rare. Passa il tempo, ma son sempre qui. Nei ricordi all'improvviso, una voce o quel viso, una lacrima scende giù. Una vita prende il volo, io rimango un po' più solo, la mia stella è già lassù. Mamma, tornare i ricordi, mai cancellati dal tempo, capire l'amore e ciò che non scordi, sentirne il respiro del vento. Del cielo una stella illumina il passo qua giù, tra le stelle quella più bella, per darmi qualcosa di più. Il suo amore ed il suo viso, un sussulto all'improvviso, la vedo ancora qua. La sua vita ha preso il volo, ma quando sarò solo, lei guiderà. I miei passi e la mia storia, la durata del mio tempo, sino a che la mia memoria si perderà nel vento. L'amore nel petto è una fiamma, sopravvive al passare del tempo. L'amore avuto da mamma non si spegne al soffiare del vento. L'amore ha un nome di mamma, resiste al passare del tempo, del tempo.